Perfetta notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. But in this job we are very very very happy because we have a lot of Italian people who believe the place of Italy is not simply a museum. Insomma, un po' la traduzione, spero abbiate capito, cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Era Renzi, e qualcuno può dire che faceva la caricatura di se stesso, ma parla effettivamente così l'inglese, un po' migliorato negli ultimi mesi, però diciamo che ha una pronuncia un po' curiosa, ecco, si potrebbe dire, per carità, nessuno getti la prima pietra. In ogni caso, stasera parleremo moltissimo di politica. Renzi parlava da Davos, dove c'è l'Economic Forum, col quale poi ci collegheremo. Parleremo moltissimo della legge elettorale, dell'Italicum, dell'iter che sta avendo, diversi pesi degli schieramenti che stanno emergendo da questo voto, e ci sono anche direi delle sorprese, perché ne abbiamo parlato abbastanza lungamente nei giorni recenti. Comunque, affronteremo questo argomento. Parleremo anche dell'annuncio che ha fatto oggi la ministra Madia sulla mobilità nella pubblica amministrazione. Capiremo un po' di cosa si tratta, e poi ci saranno naturalmente vari ospiti. Non vi sto a anticipare tutto adesso, seguite come sempre fino alla fine Effetto Notte. Vi ricordo solo che ci sono i due canali privilegiati per fare i vostri commenti man mano. C'è il numero per gli sms, che è 349-238-6666, e poi c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, sempre a vostra disposizione. Iniziamo allora, come al solito, con un riepilogo della giornata. La riforma della legge elettorale, dal Senato sia al super canguro, Bersani avverte, Renzi ci rispetti o è finita, e Berlusconi dice il PD non ha più la maggioranza al Senato. Quirinale, l'accordo fra Forza Italia e Nuovo Centrodestra sul candidato al Colle, sarà Martino, ma lui cade dalle nuvole. Vertice di Davos, è la stagione del cambiamento, avanti con le riforme, dice Renzi. E poi Stati Uniti, Obama allontana la crisi nel suo discorso all'Unione e dice è l'ora di voltare pagina, l'America è risorta. Settore pubblico, la ministra Madia annuncia la mobilità di 1000 dipendenti dalle province verso gli uffici giudiziari. Israele attentato con coltello su un bus di Tel Aviv, un palestinese ferisce 12 persone. Guerra al terrorismo, Italia e Europa rafforzano le frontiere. Salerno, il sindaco De Luca condannato a un anno di reclusione per abuso d'ufficio. E per il calcio ancora Coppa Italia questa sera con Inter-Sampdoria. E partiamo inevitabilmente quindi dalla politica. Oggi sono iniziate, vi dicevo, al Senato le votazioni sulla riforma della legge elettorale, e come già si preannunciava da diverso tempo, con le votazioni sono emerse chiaramente le spaccature, si sono cominciate a vedere i pesi diversi negli schieramenti, tra gli schieramenti. La minoranza del PD, capeggiata dal senatore Gotor, che ieri era qui a Effetto Notte, è stata battuta. Berlusconi coglie la palla al balzo e dice che il PD non ha più la maggioranza perché gli emendamenti sono passati grazie ai voti degli azzurri, e tutto ciò si intreccia con l'elezione del nuovo capo dello Stato. Sulla legge elettorale regge il patto del Nazareno, ma si complica la corsa per il Quirinale. L'Aula del Senato boccia infatti gli emendamenti a firma Gotor della minoranza PD su preferenze e capilista. Passa invece l'emendamento Esposito, il cosiddetto super canguro, che taglia ben 35.000 proposte di modifica all'Italicum, che sarà votata a questo punto senza sorprese la prossima settimana. C'era una possibile mediazione sull'Italicum e loro non hanno voluto mediare, attacca però Bersani, che riunisce 140 tra deputati e senatori. Renzi tuttavia minimizza e commenta sulle riforme. Andiamo avanti. È una posizione che non condivido e che non credo che condividano nemmeno i militanti delle feste dell'unità, anche quelli che non hanno votato per me alle primarie. Lo strappo sull'Italicum peserà però sul voto della prossima settimana per il capo dello Stato, voto sul quale intanto Alfano annuncia di avere un patto con Berlusconi. Noi riteniamo che sia importante allargare ancora il consenso su una base moderata che in Parlamento può contare su altri autorevoli esponenti. Antonio Martino sarà il candidato di bandiera dei moderati per il Quirinale, annuncia Berlusconi, che rivendica quindi la ritrovata centralità politica di Forza Italia. Fitto però commenta: faremo tutto il possibile per evitare che Forza Italia muoia come piccola lista civica renziana. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora, per restare sulla politica, anche se in parte locale, parliamo del sindaco di Salerno. Il tribunale di Salerno ha condannato il sindaco della città, Vincenzo De Luca a un anno di reclusione per abuso d'ufficio per la realizzazione del termovalorizzatore di Salerno. De Luca, candidato alle primarie PD per la Regione Campania, è stato anche interdetto per un anno dai pubblici uffici. I giudici hanno concesso la sospensione della pena. Il suo legale fa sapere, noi faremo appello. Intanto trasferiamoci adesso all'estero, al Economic Forum di Davos, al vertice di Davos, dove Renzi oggi ha detto carpe diem Italia, non siamo soltanto un museo. Vittorio Darolde, inviato del Sole 24 Ore, e oltre a questo Renzi, che insomma dice sempre orgoglioso dell'Italia, cos'altro ha detto e cosa è stato, quali sono stati i temi principali, Vittorio? Effettivamente ha messo sul tappeto tutte le riforme strutturali che il governo ha fatto o sta appunto attuando, e ha messo poi l'accento sul fatto che l'Italia è in una situazione di abbastanza relativamente bassi prezzi, quindi chi vuole cogliere l'attimo, carpe diem, deve investire adesso, deve credere adesso nel paese prima che ci sia il balzo, la ripresa, e quindi l'opportunità è adesso. E devo dire che c'è stato un grosso interesse, insomma, in qualche modo, come dicevano qui a Davos, Italy is back in Davos, quindi l'Italia è tornata come interesse da parte degli investitori. Il primo ministro ha incontrato quasi una mezza dozzina di grossi big di tutte le più grandi multinazionali, dall'energia alla finanza, alle banche, per appunto spiegare quello che sta facendo qui in Italia, suscitando notevole interesse. L'altro elemento è stata la proposta shock dell'amministratore delegato Claudio Descalzi dell'ENI, che ha proposto all'OPEC di diventare una specie di banca della centrale del petrolio per avere prezzi stabili e quindi evitare prezzi troppo bassi o prezzi troppo alti. Descalzi ha parlato della possibilità addirittura che si potrebbe arrivare a $200 come rimbalzo di dollari al barile, quindi un elemento di estrema volatilità. Ma comunque il tema fondamentale che si respira qui è che l'euro si indebolirà, il dollaro si rafforza, si potrebbe arrivare a una parità dollaro-euro 1-1, un petrolio che comunque per il momento è molto basso, tassi di interesse molto vicini allo zero, addirittura domani la BCE dovrebbe mettere sul tappeto 50 miliardi di euro di acquisti di bond, questa è la voce che girava appunto stasera, e quindi tutto questo dovrebbe essere una grande opportunità finalmente perché l'Europa ritorni sulla via della ripresa. Grazie Vittorio Darolde da Davos. Ciao Vittorio, infatti adesso vedevo che Renzi dice al Wall Street Journal: sogno la parità tra euro e dollaro. Intanto ci spostiamo in Israele, parliamo dell'attentato avvenuto questa mattina. 12 persone sono rimaste ferite da un palestinese che è salito su un autobus armato di coltello. Voleva vendicare i bombardamenti su Gaza della scorsa estate. Il giovane palestinese che ha pugnalato 12 persone, tre delle quali sono in condizioni critiche, a Tel Aviv, prima di essere ferito ad una gamba e poi arrestato dalla polizia. L'uomo ha colpito intorno alle 7 di mattina in pieno centro, è salito su un autobus, ha aspettato che si riempisse di passeggeri e ha sferrato l'attacco. È stato fermato da uomini della polizia carceraria che si trovavano a bordo di un pulmino che per caso viaggiava dietro all'autobus. L'aggressore ha 23 anni, si chiama Muhammad Azam Matruk e proviene da un campo profughi di Tul Karem, nel nord della Cisgiordania. Il 23enne ha ammesso di essere entrato illegalmente in Israele e di aver lanciato l'attacco per vendicare l'offensiva israeliana della scorsa estate nella striscia di Gaza e i recenti scontri sul Monte del Tempio. Secondo i media locali, l'aggressore ha anche dichiarato di essersi ispirato a programmi religiosi che elogiano il martirio come strada del paradiso. Il premier israeliano Netanyahu ha definito l'attentato il risultato diretto del velenoso incitamento del presidente Abu Mazen contro gli ebrei e il loro stato. Per il gruppo radicale Hamas si è trattato di un attacco eroico e coraggioso. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sul tema della lotta al terrorismo, il coordinatore antiterrorismo europeo Gilles de Kerchove richiama i Stati europei e dice che per battere il terrorismo occorre una maggiore volontà politica sfruttando meglio i meccanismi già a disposizione. E poi in Yemen, sapete che c'è stato il colpo di Stato ieri, di 35 morti e 94 feriti, il bilancio degli scontri di lunedì e martedì a Sana, la capitale, tra miliziani sciiti e forze di sicurezza. Attualmente i ribelli controllano i palazzi del governo e del presidente. Il primo ministro è fuggito mentre il presidente è agli arresti domiciliari. E in Germania il leader di Pegida, il movimento di piazza contro l'islamizzazione nato a Dresda in Germania, appunto, il leader Lutz Bachmann si dimette dalle sue funzioni nel movimento anti-Islam dopo che era stata pubblicata una sua foto con i baffi e la pettinatura di Adolf Hitler. Ma torniamo all'Italia. C'è stato l'annuncio oggi via Twitter della ministra della funzione pubblica Madia. Ha detto 1.071 dipendenti pubblici, prevalentemente provenienti dalle province, verranno spostati negli uffici giudiziari. Di questo poi parleremo più tardi. Andiamo intanto alla cronaca. Il naufragio della Costa Concordia, Costa Crociere, responsabile civile al processo di Grosseto, ha consegnato ai giudici documenti che attestano il pagamento totale di risarcimenti per circa 84 milioni di euro a 3.586 naufraghi tra passeggeri ed equipaggio. La cifra comprende quanto dato alle famiglie di 29 vittime su 32. E poi per il crack del Pacificio Amato sono stati rinviati a giudizio per concorso in bancarotta fraudolenta l'ex presidente di Banca Monte dei Paschi di Siena, Giuseppe Mussari, l'ex sindaco di Siena, Franco Ceccuzzi, l'ex presidente della Commissione Finanze della Camera, Paolo Del Mese, e 11 componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca della Campania. Il processo inizierà il 16 aprile a Salerno. Una notizia anche di tecnologia: Microsoft ha svelato alcuni particolari di Windows 10, il nuovo sistema operativo per computer e smartphone. Sarà gratuito il primo anno per i dispositivi che hanno già installato Windows 7 e 8.1 e Windows Phone 8.1 per chi lo sa. Poi in chiusura il calcio, ancora Coppa Italia anche questa sera. Dario Ricci, ci sono Inter e Sampdoria. Ciao, sì, Dario. Sì Roberta, buonasera. Allora, intanto già si è qualificata la Fiorentina che ha superato l'Atalanta 3-1 nella prima gara di questa serata. Ora invece in campo appunto Inter e Sampdoria, siamo al 12° del primo tempo, il risultato è ancora sullo 0-0, ma l'Inter è in superiorità numerica perché proprio pochi istanti fa Icardi è stato atterrato in contropiede, che occasione da gol, quindi l'arbitro Tagliavento ha espulso il Doriano Krstičić, quindi risultato ancora sullo 0-0. Seguiamo questa punizione dell'Inter: Shaqiri, il sinistro deviato in calcio d'angolo dal portiere della Sampdoria, quindi ancora 0-0, ma Inter in 11 contro 10 a questo punto per buona parte della gara. Grazie Dario Ricci, poi lo sapete che più tardi ci aggiorniamo nuovamente sui risultati. Ringrazio intanto un ascoltatore del suo messaggio e poi gli altri messaggi sempre al 349-238-6666. Se volete sulla politica, poi parleremo anche di pubblica amministrazione, oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugi, tra l'altro. E un possibile spunto questa sera è quello che avete sentito, ha detto Renzi, cioè che quella di una parte della minoranza PD sull'Italicum è una posizione che non condivido e non credo che condividano neanche i militanti delle feste dell'Unità. Che ne pensate? Che ne pensate di questa spaccatura all'interno del PD, quella più forte, perché in realtà poi c'è la fronda anche in Forza Italia e ne parleremo, ma concentriamoci se volete sul PD. Cosa ne pensate? Siete con Renzi, con la sua linea inarrestabile, oppure ritenete che la minoranza, come dice Bersani, vada rispettata? Ci sentiamo tra pochissimo, ci sono gli aggiornamenti per la viabilità. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci di nuovo insieme, ancora stanno arrivando i vostri messaggi, poi comincerò a leggerne qualcun altro sulla la politica e non solo. Adesso affronteremo questo iter così accidentato, anche se poi insomma sarà inarrestabile l'arrivo dell'Italicum a buon fine, però ha messo in evidenza molte tensioni, molte spaccature. Sentiamo le altre notizie del giorno. Italicum sì al super canguro, ma il PD si spacca al Senato, la minoranza si conta. Berlusconi dice Renzi non ha più i numeri. E poi il presidente del Consiglio da Davos, avete sentito, Carpe Diem, dice avanti col cambiamento, la stagione delle riforme che servono all'Italia e l'Unione Europea non sia solo burocrazia. Guerra al terrorismo, Italia e Europa rafforzano le frontiere, la Francia si blinda con il primo ministro Valls che lancia l'allarme, dice c'è un boom potenziale di attentatori in Francia. Obama nel suo discorso all'Unione allontana la crisi, è l'ora di voltare pagina, dice l'America risorti, più reddito ai meno abbienti e stop all'embargo contro Cuba. Al via la mobilità per gli statali. In Italia 1.000 in uffici giudiziari, così dice la ministra Madia, ci saranno trasferimenti dove c'è carenza, priorità alle province. E poi la promessa di Facebook sul social, meno notizie bufala, intanto arriva Windows 10. Ecco. eccoci qua. Allora, alla politica, quello che è successo oggi, lo scontro sulla legge elettorale che dura da un po'. Il Senato comunque ha approvato il cosiddetto super canguro oggi, questo emendamento del parlamentare del PD Esposito. Sono spazzati via con questo emendamento, sono stati spazzati via quasi 40.000 emendamenti. Adesso se ne si discutono quelli che rimangono, circa 7.000, più di 7.000 fino alle 22 di stasera. L'Aula del Senato quindi ha detto sì a questo super canguro, l'emendamento Esposito che ha riscritto il disegno di legge per la nuova legge elettorale, cioè l'Italicum. Sono stati 175 sì, 110 no, 2 gli astenuti. Secondo lo stesso senatore Esposito sono stati 21 i senatori della minoranza PD a votare contro il suo emendamento, quelli capeggiati praticamente dal senatore Miguel Gotor, che abbiamo sentito ieri in diretta a Effetto Note, e poi magari risentiamo un passaggio delle sue dichiarazioni. Con l'approvazione di questo emendamento decadono, vi dicevo, quasi tutti i 47.000 emendamenti che erano stati presentati dai vari parlamentari. Renzi ostenta ottimismo, adesso possiamo andare avanti, ma effettivamente c'è stata una grossa spaccatura con la minoranza e con Bersani anche, che ha avvertito: attenzione, la minoranza va rispettata, altrimenti è finita. Saluto intanto Roberto Dalimonte. Professor Dalimonte, buonasera. Buonasera. Politologo, docente di sistema politico italiano alla LUISS, editorialista del Sole 24 Ore. Intanto, con questo super canguro, perché ha permesso di saltare tutti questi emendamenti di Esposito, Italicum adesso che cosa prevede principalmente? Quali sono i punti essenziali? I punti essenziali sono il doppio turno, il fatto che se nessuno arriva al 40% dei voti, meglio, se uno arriva, se un partito arriva al 40% dei voti ottiene il 55% dei seggi, se nessuno arriva al 40% dei voti si va a un ballottaggio e chi vince va al 55% dei seggi. Quindi questo è un sistema elettorale che la sera delle elezioni, come ama dire Renzi, determinerà chi è il vincitore, quindi chi farà il governo. Però, questa è la cosa essenziale. Sa che ci sono stati un po' di retromarcia, poi di nuovo avanti, indietro. Sulla questione dei capilista bloccati, l'emendamento Gotor voleva eliminare questo blocco dei capilista, perché diceva altrimenti il Parlamento italiano continua a essere, come col Porcellum, un Parlamento di nominati, no? Dai segretari di partito, dalle segreterie, invece che scelti dagli elettori. Ma intanto è curioso che sia Gotor a farsi capofila di questo del fronte a favore del voto di preferenza, quando Gotor è stato eletto con la lista bloccata. Gotor non sarebbe mai entrato in Parlamento se ci fosse stato il voto di preferenza. Quindi, ma a parte questo paradosso, il punto è che in realtà questo è un sistema flessibile dove una parte che non è determinabile a priori, una parte degli eletti verrà scelta con il voto bloccato e una parte con il voto di preferenza. La mia stima è che alla fine, nella maggior parte dei casi, nella maggior parte delle elezioni, sarà un 50-50, 50-50, e non è una brutta cosa, perché noi sappiamo che il voto di preferenza sì, va bene perché dà agli elettori la possibilità di scegliere i candidati, però è anche il voto di preferenza è voto di scambio in molte zone del paese. Mentre dall'altra parte la lista bloccata si possono eleggere in Parlamento il Gotor, cioè le competenze, e quindi secondo me è un sistema flessibile che va bene. D'altra parte, in altri paesi europei, in Spagna il 100% dei candidati viene scelto con la lista bloccata, in Germania 50% collegi, 50% lista bloccata. In moltissimi altri paesi europei c'è la lista flessibile, che non è esattamente il voto di preferenza italiano, quindi di che cosa stiamo parlando? Professore, invece sulla questione del premio di maggioranza alla lista anziché alla coalizione, fino a pochissimo tempo fa Berlusconi era assolutamente contrario, invece ieri ha detto no, questo anzi il voto, il premio di maggioranza alla lista, come vuole Renzi, come prevede l'Italicum, ci obbligherà quasi per legge a stare insieme, a compattarci come centrodestra, quindi l'ha salutato quasi come una fortuna. Come mai questo passaggio? Quali sono i motivi reali non posso dire, ma certo è una scommessa per il centrodestra, perché col voto alla lista si va verso un sistema tendenzialmente bipartitico, non nel senso che ci saranno solo due partiti, perché in realtà con la soglia bassa al 3% ci saranno altri partitini, ma gli altri partitini non conteranno. Conteranno due grandi partiti, perché saranno solo quelli che possono ottenere il premio di maggioranza o al primo turno o al secondo turno. Quindi per il centrodestra è una grande scommessa, perché dovrà ricompattarsi intorno ad un grande partito di centrodestra che sarà Forza Italia, o il partito che succederà a Forza Italia. Quindi questa è la mia analisi. Il suo punto di vista, professor Dalimonte, le vorrei far sentire, giusto per capire anche in che clima colorito, no, lavora il Parlamento, vorrei far sentire il senatore D'Anna del GAL, il gruppo Grande Autonomia e Libertà, così facciamo un po' di costume. Perché sapete bene che il fumo più tossico per la mente dell'uomo è l'incenso. E qua avete un sacco di persone che si sono intossicate dei salamelecchi, degli inchini talmente profondi che a molti di loro gli si vede il culo a furia di abbassarsi. Questo, insomma, chi contestava, in questo caso il senatore D'Anna. Ma sentiamo anche Renzi a proposito invece degli scontri con la minoranza, che cosa ha detto. Prendo atto che su questo voto, come già era accaduto sul Jobs Act, una parte della minoranza del mio partito decide di muoversi in autonomia. È una posizione che non condivido e che non credo che condividano nemmeno i militanti delle feste dell'unità, anche quelli che non hanno votato per me alle primarie dicono: beh, però se uno ha vinto poi deve lavorare, altrimenti a che serve? Però questo, come avete visto oggi, è ininfluente ai fini del risultato finale, e quindi da questo punto di vista andiamo avanti nel rispetto delle opinioni di tutti. Così ha detto Renzi. Poi, per chiudere, il professor Dalimonte, la saluto con quello che ha detto Salvini della legge elettorale, Salvini della Lega. È una legge elettorale indegna, imbarazzante, da regime, perché Renzi è uomo da regime, sorride ma è pericolosissimo, e quindi faremo di tutto per mandarlo a casa il prima possibile. Professore, vuoi fare proprio un commento di qualche secondo? Sì, faccio un commento, sì. Come no. Salvini è segretario di quel partito che ha votato nel 2005 il Porcellum, dove c'erano il 100% di candidati con la lista bloccata. Questa è la coerenza della Lega. Mi ripeto, nel 2005 il Porcellum è stato votato dalla Lega. Sì, sì. E prevedeva il 100% di lista bloccata. Grazie, professor Roberto Dalimonte. Grazie a voi. Buona continuazione. Arrivederci. E saluto Barbara Fiammeri. Buonasera, Barbara. Buonasera. Commentatrice del Sole 24 Ore. Abbiamo visto quindi questo tormento all'interno del PD, come sono andate le cose. Bersani poi, che ha riunito 140 parlamentari del PD, della minoranza, insomma, per capire il da farsi. Intanto però anche Forza Italia ha la sua fronda. Ieri già Fitto aveva detto, il capo dei frondisti, ex delfino di Berlusconi, aveva detto: Berlusconi suicida Forza Italia con questo sostegno inchinato a Renzi. E oggi Berlusconi ha detto: decidete, o mi seguite o prendete una vostra strada. Però Fitto, insomma, sembra che ne voglia sapere. Quindi è emersa anche questa spaccatura all'interno di Forza Italia, non solo del PD, Barbara. Sì, è emersa questa spaccatura. Ci tenevo a fare una premessa rispetto, certo, a quanto aveva detto poco fa Dalimonte. È un aspetto che secondo me in questo momento viene sottovalutato, a proposito dei capilista bloccati. È vero che ci sono i capilista bloccati, ma è vero anche che nell'emendamento Cotorra, in tutte le proposte, sono previsti appunto il cosiddetto listino dei bloccati, quel 30% che era quello che chiedeva la minoranza del PD, che sarebbe stato comunque eletto senza preferenze. Ebbene, la cosa, a mio parere, insomma, che deve far riflettere è che, mentre nel caso dell'Italicum, così come è stato approvato il testo dell'emendamento Esposito, si prevede che il capolista è per collegio, ovvero un po' come erano i collegi uninominali del Mattarellum, nel senso che noi troveremo sulla scheda il nome e cognome di chi ci dovrà rappresentare, e poi per i partiti maggiori ci sarà la possibilità anche di esprimere le preferenze. Nel caso dell'istituto bloccato di questa quota di 30%, un po' come avviene nelle regioni, in alcune regioni, non in tutte, di fatto noi non sappiamo chi andiamo a eleggere, chi saranno questi bloccati, per cui non so quanto a trasparenza e quanto al rapporto tra eletto e elettori, quale dei due sistemi sia migliore. Questo tanto per far capire, insomma, poi quanto le tecnicalità rendono poi difficile poter esprimere dei giudizi imparziali. In questa storia mi sembra, sia da parte, diciamo, della minoranza del PD che della minoranza di Forza Italia, per venire poi alla tua domanda, che ci sia molto più un gioco politico rispetto alla posta che è la posta principale, ovvero il Quirinale. Brava. Cioè, questa mi sembra un po' una prova generale per quelli che potranno essere i conti che si faranno da giovedì, quando il Parlamento si riunirà in seduta comune per decidere chi succederà a Giorgio Napolitano. Barbara, ti dico questo perché ieri chiedevo proprio a Miguel Gotor, ma Renzi in questi giorni avrebbe insinuato, almeno dal punto di vista di Miguel Gotor, della minoranza, che la partita, la minoranza del PD non la sta giocando tanto sull'Italico, con quanto invece sul Quirinale. Sentiamo che cosa ha risposto ieri qui in diretta a Effetto Notte. È stato Renzi temporalmente a sovrapporre le due vicende, è un dato di fatto, e lo ha fatto perché in questo modo egli ritiene di poter condizionare una serie di personalità che legittimamente aspirano a poter diventare Presidenti della Repubblica. Noi dovremmo, come dire, limitarci nelle nostre irresponsabilità e tenere separati il più possibile le due cose, nonostante questo tentativo di Renzi di tenerle una accanto all'altra, anche nell'ottica di decidere con Verdini e con Berlusconi il prossimo Presidente della Repubblica. Hai sentito cosa ha detto Barbara Fiamberi? Sì, ho sentito. No, sorridevo perché in realtà quando si tratta delle elezioni del Presidente della Repubblica il fatto che ci siano delle consultazioni è, direi, pleonastico, nel senso che il quorum richiesto è talmente ampio che è inevitabile che ci sia un'alleanza tra forze politiche e anche di schieramenti opposti, no? Sappiamo che nelle prime votazioni, nelle prime tre, serve un quorum qualificato dei due terzi e che poi soltanto a partire dalla quarta ci sarà la richiesta di una maggioranza assoluta dei votanti, del quorum, sì, insomma, dell'Aula. E quindi è inevitabile che ci sia, che la Costituzione nel momento in cui ha deciso di prevedere un quorum così forte, lo ha fatto proprio perché il Presidente della Repubblica, in quanto arbitro, in quanto terzo, deve rappresentare non una parte ma entrambi gli schieramenti, il più possibile comunque. Però Gotor dice, Barbara, in realtà sembra che sia dentro il patto del Nazareno che alla fine sia una cosa tra Renzi e Berlusconi, questa decisione che lasci fuori il resto delle forze politiche parlamentari e forse parte dello stesso PD. Allora rispondo con quello che dice Fitto dall'altra parte, cioè Fitto sostiene esattamente il contrario, ovvero che Berlusconi si è venduto di fatto a Renzi, un po' la frase certamente volgare di Danna in aula mi sembra più che eloquente, quindi a seconda di come la sentiamo, no? da chi pronuncia, se sia renziano, se sia berlusconiano, se sia di Fitto, se siano della minoranza bersaniana, si dà un'interpretazione diversa. Però oggi c'è stato questo incontro tra Berlusconi e Alfano, hanno detto abbiamo deciso, annunceremo un nome di comune accordo da noi del centrodestra, poi Berlusconi ha annunciato Antonio Martino, ex ministro della difesa, che però poi ha smentito questa cosa poco fa alla Zanzara, la sua candidatura, ha detto non lo sapevo, mi sembra uno scherzo da prete, ma vorrei far sentire anche così, giusto come una spigolatura, sempre alla Zanzara, un'altra cosa che aveva detto Martino tempo fa, per esempio sul tema del femminicidio. Non credo che sia un reato diverso dal normale omicidio, il femminicidio, anche perché 7 su 3 morti ammazzati sono maschi. Sì. Quindi non vedo perché dovremmo fare tutto questo cancan sul femminicidio. Questo è giusto. sul femminicidio piuttosto che Cancan, non esiste il femminicidio per Antonio Martino. Comunque Berlusconi ha detto, a proposito delle regole che ricordavi tu, dei due terzi fino alla terza votazione, poi la maggioranza del quorum, Berlusconi poi ha specificato in serata: sarà candidato di bandiera dei moderati per le prime tre votazioni, per poi arrivare alla quarta con un nome condiviso col PD. Una specie di carte così da giocarsi all'inizio. Beh, diciamo poi... che parte la conta, no? Io ho interpretato questa affermazione di Berlusconi come una dichiarazione molto forte, nel senso che quando ci si misura sui numeri, cioè se si candida il cosiddetto candidato di bandiera, no? Una sorta di lepre che viene mandato avanti, ma che si sa già in partenza, lo sa la stessa lepre che non sarà il vincitore, serve perché ci si conta, cioè in queste tre prime votazioni poniamo che venga effettivamente messo da Forza Italia il nome di Martino, alla fine andremo a vedere quanti voti Martino ha ricevuto, e se saranno meno degli esponenti di Forza Italia e degli altri moderati, è evidente che ci sono dei franchi tiratori, cioè dei parlamentari che non hanno aderito all'indicazione del loro leader. Che non votano secondo indicazioni. Barbara Fiammeri, ma avremo modo di aggiornarci parecchie volte, visto che si vota a fine gennaio. Intanto grazie Barbara, buon lavoro. Grazie a voi e buonasera. Ciao Barbara. Tra poco parleremo poi della questa annunciata mobilità nella pubblica amministrazione, annunciata oggi dalla ministra Madia. A tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, moltissimi vostri commenti sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia al 349-238-6666. Clotilde dice: il fiorentino sta correndo velocemente verso la sua fine, in bocca al pregiudicato. Andrea da Bologna: salve, coloro che non condividono l'operato di Matteo Renzi sono molti di più di quelli che vanno alla festa dell'unità. E poi invece un ascoltatore, Andrea, che dice: oggi nasce ufficialmente il PDN, partito del Nazareno, no comment. E poi moltissimi altri che magari vi racconterò dopo. Adesso ritorno invece sulle notizie principali della giornata. La riforma della legge elettorale, dal Senato è arrivato il sì all'emendamento super canguro, cosiddetto. Bersani però avverte: Renzi, ci rispetti o è finita? E Berlusconi dice: il PD non ha più la maggioranza al Senato. Quirinale: accordo tra Forza Italia e il nuovo centrodestra sul candidato al Colle, sarà Martino, ma lui dice che non ne sa nulla. Vertice di Davos: è la stagione del cambiamento, avanti con le riforme, annuncia Renzi. Stati Uniti: Obama allontana la crisi, nel suo discorso all'Unione dice è l'ora di voltare pagina, l'America è risorta. Settore pubblico: la ministra Madia annuncia la mobilità di 1000 dipendenti, tra poco ne parleremo. Israele: è stato un attentato con un coltello, un uomo su un bus di Tel Aviv, a Tel Aviv, un palestinese, ha ferito 12 persone. E poi Salerno: il sindaco De Luca condannato a un anno di reclusione per abuso d'ufficio. Coppa Italia: dopo la qualificazione della Fiorentina oggi contro l'Atalanta 3-1, in campo ci sono Inter e Sampdoria. Occupiamoci allora adesso di questo annuncio che è arrivato oggi per quanto riguarda la pubblica amministrazione. È arrivato un annuncio via Twitter dalla ministra della funzione pubblica Marianna Madia, che diceva questo tweet mobilità sbloccata, 1071 dipendenti pubblici verso gli uffici giudiziari dove c'è carenza di personale, priorità a quelli delle province. Così ha scritto la ministra. È intervenuta una dichiarazione la leader della CGIL Camusso, che ha detto: scusa ministra, ma i tirocinanti della giustizia non avevi promesso nessuno perderà il posto di lavoro? Così si mettono i lavoratori deboli gli uni contro gli altri, dice Camusso, intervenendo a un convegno sulla riforma della pubblica amministrazione. Un annuncio questo della ministra Madia che non è piaciuto, pare, neanche a Rossana Dettori. Buonasera. Buonasera. Segretaria generale della funzione pubblica CGIL. Perché non vi è piaciuto questo annuncio, Dettori? Beh, intanto perché parliamo di persone in carne ed ossa ed è... qualcuno scoprirà tramite un tweet che probabilmente è messo in mobilità. Il metodo non è sicuramente quello di una relazione corretta che il governo dovrebbe avere anche con le parti sociali, ma intanto siamo abituati a un governo che pensa che non bisogna discutere, e quindi perché non ci è piaciuto? Non ci è piaciuto perché appunto la ministra annuncia tramite un tweet 1017 o 1027, non mi ricordo, mobilità verso il Ministero della Giustizia, che ha già fatto un avviso per 1000 assunzioni presso il Ministero della Giustizia. Nel Ministero della Giustizia lavorano 3000 tirocinanti da lungo tempo, quindi il loro tirocinio ormai è scaduto da qualche mesi abbondantemente, a cui era stato promesso che potevano partecipare all'avviso dei 1000, quindi con qualche garanzia di stabilizzazione presso il Ministero della Giustizia. Con questo tweet la ministra ha messo in contrapposizione lavoratori che giustamente si aspettavano qualche risposta con lavoratori che sappiamo tutti da dichiarazioni del governo che sono in mobilità, ma per metterli in mobilità bisognava aspettare intanto i tavoli, le regie regionali che devono stabilire quanto è il personale in esubero, perché non c'è nessuna certezza ancora su questo dato. E soprattutto bisognava capire quali erano le funzioni che restavano in capo a quelle che si chiamano province, che sono le ex province, che qualche regione chiama aree vaste, eccetera. E soltanto a seguito di una ricognizione delle funzioni delle province, la regione che resta in provincia, quindi rispetto alle funzioni e il personale che segue le funzioni, avremmo dovuto mettere in campo la mobilità. Ricordo alla ministra, ricordo a tutti, che per fare la mobilità nel pubblico impiego occorre avere anche una tabella di equiparazione per la mobilità, perché non è che i lavoratori sono tutti identici e fanno tutte le stesse funzioni, quindi bisognerà capire come si muovono, chi si sposta, con quale formazione anche, perché ripeto, non siamo delle macchine. Un lavoratore della provincia svolge funzioni a competenza che non sono sicuramente quelle dei lavoratori della giustizia. Quindi, dottore, mi scusi, complessivamente di questa chiusura delle province, quindi della necessità di trovare un'altra collocazione per i dipendenti, complessivamente cosa ne pensa? Perché fra l'altro mi pare siano state anche bloccate, per esempio, lo scorrimento delle graduatorie di chi ha vinto concorsi anche nei comuni, negli enti pubblici, perché vanno prima ricollocati i dipendenti delle province. No, infatti, da questo punto di vista il governo sta facendo un'operazione che è quella di mettere lavoratori gli uni contro gli altri, cioè quelli che hanno vinto un regolare concorso e che quindi hanno diritto ad essere assunti perché è vincitore di un concorso, lavoratori precari, perché poi dentro le province abbiamo anche molti lavoratori precari, precari da 10 anni, quindi parliamo di lavoratori che sono precari con rinnovi continuativi del loro rapporto di lavoro e che quindi lavorano magari presso gli uffici per gli uffici pubblici per l'impiego da decine di anni. Quindi adesso che cosa vi aspettate, dottore? Intanto voglio soltanto precisare che sono stati invitati sia la ministra Madia qui a effetto notte, sia il sottosegretario alla funzione pubblica Rughetti, ma tutti e due hanno declinato l'invito per impegni. Ecco, quindi fatta questa parentesi, che cosa vi aspettate adesso? Aspettate un incontro? Ma noi avevamo in teoria un tavolo tecnico domani che poi è stato spostato al 24 proprio per affrontare il tema del riordino riordino delle province, chiamiamolo così, quindi della nuova, perché non sono soppresse le province, cambiano nome, cambiano sistema elettorale, nel senso che nelle province non viene più eletto nessuno, come sappiamo, però la legge del Rio aveva stabilito che alle province restavano alcune funzioni e le regioni, molte hanno già stanno legiferando, molte hanno già preparato proposte di legge sulle funzioni che restano alle province e quelle che invece vanno alle regioni. Quindi se non c'è questo è complicato capire quant'è il personale, qual è il personale che va in mobilità, perché è legato davvero alle competenze che restano o vengono trasferite, con un impegno che era quello che appunto le funzioni trasferite magari presso le regioni avevano come eredità anche i lavoratori che facevano quelle funzioni, che quindi seguivano la funzione che veniva spostata. Già. Questione complessa e piuttosto intricata, avremo modo magari di risentirci su questo argomento. Grazie intanto Rossana Dettore, grazie, buon lavoro. Grazie a lei. Buona continuazione. Aggiornamenti per chi viaggia. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ancora un po' di spazio ai vostri messaggi, ringrazio Marco da Vignole, credo, e poi sulla pagina Facebook di Effetto Notte Nino che dice a proposito della spaccatura del PD: quello che è evidente è che l'attuale minoranza del PD non aveva mai messo in conto di non poter guidare per sempre il partito, allora chi ha colpa del suo mal pianga se stesso. Massimo dice: penso che ogni giorno Renzi, come tutti noi, ha delle scelte da fare, ma non fa mai gli interessi del popolo. Insomma, pensieri contrapposti. Vi ricordo anche quali sono le notizie principali, se avete acceso in questo momento naturalmente le votazioni sull'Italia. Italicum c'è il sì all'emendamento di Esposito definito super canguro, che cancella gran parte degli emendamenti, quindi l'Italicum procede, ma il PD si spacca al Senato. Il Presidente del Consiglio Renzi a Davos al vertice economico dice: carpe diem, avanti con il cambiamento e la stagione delle riforme. Guerra al terrorismo, Italia e Europa rafforzano le frontiere, la Francia si blinda, ne parleremo tra pochissimo. Obama nel discorso l'Unione allontana la crisi e dice: è l'ora di voltare pagina, l'America deve risorgere. Al via la mobilità per gli statali, 1000 in uffici giudiziari, questo è l'annuncio della Madia di cui abbiamo parlato poco fa. Europa 24 notte. E per l'Europa parliamo di vongole, perché in questi giorni a Venezia c'è stata la protesta di centinaia di pescatori italiani contro le norme europee sul pescato, che impongono misure troppo restrittive ai fini del ripopolamento ittico ed ingenti sanzioni per gli operatori. È intervenuto su questa vicenda il segretario della Lega Nord Matteo Salvini, che ha detto: la misura è colma, andremo in presidio presso la sede della Commissione Europea a Milano con centinaia di produttori agricoli e di pescatori italiani. Vogliamo sentire anche un passaggio di come ha commentato Salvini questa notizia. Ieri mi hanno scritto i pescatori di vongole. Uno dice: chi se ne frega? No, perché l'Europa decide che la vongola si pesca se è di 2,5 centimetri. Quindi massacrando un intero sistema produttivo italiano, sono migliaia di posti di lavoro. Ma questo vale per l'Europa, ci spiega come si fa il formaggio, come si tolza il pane, come si fanno le arance. Questa Europa è una gabbia di matti, io voglio un'altra Europa. Ma adesso ne parliamo direttamente con Enrico Brivio, portavoce della Commissione Europea per i temi dell'ambiente, della salute e della pesca. Cos'è questa vicenda delle vongole in breve, Enrico? Buonasera. Pronto? Così in breve, brevissimo direi, che proprio non si sente proprio. Enrico, vediamo se lo recuperiamo, probabilmente direttamente da Bruxelles ci saranno stati problemi di linea. Allora continuo a leggere ancora i vostri messaggi. Renzi che dice ha pugnalato Letta, scusate, un ascoltatore dice: Renzi ha pugnalato Letta, sarà pugnalato dai suoi, non solo, aspettiamo che cada a breve tutta la sua famiglia travolta da scandali, eccetera eccetera, dice questo ascoltatore piuttosto agguerrito. E poi invece un altro messaggio dalla pagina Facebook di Effetto Notte, in attesa di recuperare il nostro Enrico Brivio, c'è Mario che dice: il PD da corpo solido sta sublimando a causa della forte pressione politica, sta sublimando, una reazione chimico-fisica, penso appunto quando una sostanza passa dallo stato solido allo stato aereo, questa è la definizione evidentemente dell'ascoltatore. Enrico, sei tornato? Sì, sono tornato, sono in linea. Eccoci qui. Buonasera. Quindi questa questione delle vongole, in breve, che cos'è esattamente? Ma no, indubbiamente capisco che sia un problema per le persone che devono pescare vongole della zona di Chioggia, di Venezia, perché è un momento di crisi e non è semplice. Però direi che si sta un po' strumentalizzando il problema, nel senso che il fatto che ci sia una taglia consentita dalla legge di 2,5 centimetri per pescare la vongola non è un prodotto di un oscuro burocrate europeo, come ho appena sentito dire Salvini. In realtà è una soglia che è stata stabilita da degli esperti, tra cui anche alcuni italiani, per garantire la sostenibilità della specie delle vongole, cioè per garantire che ci siano vongole anche nel futuro, nel senso che se si cominciano a pescare vongole troppo piccole non è più possibile garantire una pesca sostenibile, quindi una misura conservativa che è basata su nozioni scientifiche, non è un'oscura invenzione di qualche burocrate. Tra l'altro si tratta di un regolamento in vigore dal 2007, votato anche dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo, in quale sedeva anche un ministro italiano. Quindi insomma mi pare che si stia un po' strumentalizzando il problema e incolpando Bruxelles e l'Europa di colpe che in fondo non ha. Grazie Enrico Brivio da Bruxelles. Ciao Enrico. Grazie a voi, ciao. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. E da Bruxelles in Francia, non si parla di vongole in questo caso, ma ancora di lotta al terrorismo, il primo ministro francese Valls ha evidenziato che aumentano gli individui pronti a colpire in Francia, ha parlato addirittura della possibilità di migliaia di cellule dormienti, come si definiscono, e poi ha annunciato anche non solo lo stanziamento di 425 milioni in 3 anni di fondi per battere il terrorismo, ma anche della creazione conseguentemente di 2600 posti di lavoro. Ma ci racconta meglio Marco Moussanet, corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi. Buonasera Marco. Buonasera a voi. Ma sì, il Premier Valls ha annunciato questa mattina una serie di misure molto attese dopo i giorni della paura, del dolore, della commozione. I francesi si aspettavano che si passasse dalle parole ai fatti, cosa che è avvenuta appunto stamattina. Il governo ha presentato una serie di misure, tu hai già anticipato qualcosa, si tratta appunto della creazione di 2700 nuovi posti in 3 anni, gran parte di questi sono destinati proprio a rimpolpare i servizi di intelligence, 1100 persone hanno questa destinazione, che hanno mostrato nella vicenda drammatica dei 3 giorni terribili di Parigi una certa difficoltà seguire le piste, tenere sotto controllo tutte le persone che in realtà dovrebbero esserlo in Francia, e quindi c'è questo forte problema di sottorganico, quindi in termini di posti. C'è uno stanziamento complessivo in realtà appunto superiore a quello che tu citavi, perché è in totale, compresi appunto la creazione di nuovi posti, sono 740 milioni circa in 3 anni, di cui 250 già quest'anno, e una serie di altre misure, alcune abbastanza significative. La più emblematica per certi versi è quella relativa alla situazione carceraria. Sappiamo che le prigioni sono dei luoghi di eccellenza, diciamo, del proselitismo e dell'indottrinamento dei fondamentalisti islamici. Lo Stato, il governo ha deciso di di nominare 60 imam supplementari rispetto ai 180 che già sono nelle carceri, proprio per cercare, diciamo, di tenere sotto controllo e di, diciamo, gestire, di indirizzare, se vogliamo così, nella giusta direzione, cioè quella di un Islam moderato, i giovani che si trovano in una situazione di difficoltà in carcere, che potrebbero effettivamente essere indotti ad abbracciare e a percorrere altre strade. Marco, adesso questo annuncio che ha fatto Valls, questo avvertimento, non lo so, su addirittura migliaia di potenziali terroristi in Francia. In realtà i numeri non sono molto diversi da quelli che si sono detti più volte nei giorni e settimane scorse, cioè la Francia ha circa 1400 persone francesi che sono partite per i fronti di guerra in Iraq e soprattutto in Siria. Di questi circa 400 sembra che siano dei veri combattenti, che siano al fronte con le truppe dello Stato Islamico. A questi si aggiungono altri 500 che sono andati e operano, insomma, su altri scenari, dall'Afghanistan allo Yemen, e infine quelli che in un modo o nell'altro sembrano muoversi nella nebulosa, diciamo, jihadista. In totale si tratterebbe di circa 3000 francesi. Il problema è che per tenere sotto controllo in modo assolutamente efficace sicuro queste 3000 persone, servono delle risorse umane e finanziarie enormi. Se pensiamo che ognuno di questi per essere veramente sotto controllo ha bisogno di 20 persone che si occupano di lui. Ed ecco perché questo incremento anche di posti di lavoro. Grazie Marco Moussanet, salutaci Parigi. Grazie a voi. Ciao Marco. Ritorniamo invece in Italia con la Coppa Italia, per l'appunto, e Dario Ricci. Dario, come va la partita Inter-Sampdoria? Allora, siamo nell'intervallo, Roberta. Direi che, come avevo detto, l'Inter è in superiorità numerica dal 12esimo, ma il risultato è ancora sullo 0-0, perché c'è stata l'espulsione di Kirstisic per fallo, perché da ultimo uomo, su Icardi, quindi Inter appunto con un uomo in più. Al 36esimo la grande occasione per i nerazzurri, calcio di rigore per il fallo di Colek su Dodò, fallo netto, non ha avuto esitazioni, tagliamento a indicare il dischetto, sullo stesso si è presentato ancora Mauro Icardi, ipnotizzato da un Romero in forma straordinaria che ha detto di no almeno in 3 occasioni agli attaccanti nerazzurri. Quindi fine del primo tempo, risultato ancora di 0-0 sotto una pioggia battente, partita che per l'Inter si sta un po' complicando. Grazie Dario Ricci, noi ci sentiamo tra poco.